Buonasera a tutti quanti, grazie di essere qua e grazie alla Polverere, al Festival della Letteratura Sociale che ha resistito nonostante tutto anche quest'anno. Grazie a loro perché è il terzo anno, fra una cosa e l'altra, la terza edizione in cui ci ospitano come affluenti. Anno scorso, anzi nel 2017, nel maggio del 2017 presentammo la prima antologia di affluenti e qua al Festival, che era uscita a fine 2016. Lo scorso anno abbiamo presentato Eva Krushel con Contrabbando di Upupe, prima autrice a fare una tournée internazionale con un libro tradotto appunto per la collana di affluenti. Era appena arrivata dagli Stati Uniti, lei è un'autrice polacca emigrata negli USA, e la presentammo qua, facemmo la prima data della sua tournée qua al Festival di Letteratura Sociale. Questa sera, grazie ai ragazzi del Festival e grazie a voi, abbiamo il piacere di presentarvi la seconda genita, appunto, ovvero la nostra seconda antologia di affluenti, che è appena uscita, da poco uscita, è uscita nel luglio scorso, e è, diciamo, l'ala fiorentina, la parte fiorentina del nostro progetto, quella che è rimasta più legata appunto alla città di Firenze, perché Affluenti nasce appunto nel 2016 con una prima antologia di quella che noi chiamiamo Nuova Poesia Fiorentina, sulla proposta di questa casa editrice di Roma, Edizioni Ensemble, di lavorare su un'antologia poetica a Firenze. Per noi questa dicitura, che sembrava appunto tanto rischiosa quanto forse un po' pretenziosa, di Nuova Poesia Fiorentina, per noi invece acquisì fin da subito un senso del tutto particolare, perché è del tutto nuovo anche in qualche modo, perché ci rendemmo conto con Marco che una buona parte, la gran parte in realtà, degli autori che avevamo scelto e stavamo scegliendo per questa antologia di poesia a Firenze erano sì per noi a tutti gli effetti fiorentini per studio, lavoro, migrazione, ma in molti casi erano nati e cresciuti in contesti diversi rispetto a quello di Firenze, a quello del capoluogo toscano. Quindi fin da subito questo potenziale umano di acquisizione che si incontrava da un lato con la storia di Firenze, dall'altro col vivaio locale, chiamiamolo così, o comunque con i tanti autori, con le tante voci fiorentine che avevamo incontrato nel nostro percorso, ci dette il senso fin da subito appunto di una fase storica, no? Di una fase sociale, quindi anche di un qualcosa che accadeva nel mondo, nel contesto culturale fiorentino, che non era più soltanto qualcosa che scorreva appunto in modo sotterraneo, ma era forse appunto una fase storica del tutto nuova, a cui aveva senso, a cui c'era bisogno, credo, di dare voce, di dare spazio. E da lì appunto l'idea di Affluenti come progetto poetico basato su un'idea cosmopolita e multietnica di Firenze e di mondo, dove la poesia noi pensiamo che sia, possa essere un mezzo, uno strumento fondamentale per abbattere qualsiasi tipo di muro, qualsiasi tipo di confine, che sia fisico, che sia mentale o che sia linguistico, e per costruire possibili ponti o possibili, diciamo, canali sotterranei fra diverse culture e fra diversi linguaggi. E nel settembre del 2018 la Affluenti da antologia è diventata anche una collana editoriale per Edizioni Ensemble, quindi è andata oltre il contesto fiorentino, abbiamo iniziato a pubblicare autori in tutta Italia e appunto anche alcuni autori all'estero, ma con Marco abbiamo sentito il bisogno, anche la voglia proprio, di continuare questo progetto anche su Firenze, e quindi di dare vita e di far uscire una seconda antologia, nella quale abbiamo avuto modo appunto di far affluire le tante voci che in questi anni ci hanno seguito ed hanno in qualche modo incarnato lo spirito di Affluenti e il senso fondamentale di quello che è nel progetto, ovvero il tentativo di costruire comunità, di costruire possibili comunità attraverso la poesia, e quindi di far incontrare in questo contesto fiorentino come altrove quel, diciamo, crogiuolo di persone, di popoli, e di culture e di linguaggi che ormai caratterizzano Firenze come tanti altri contesti in Italia e ormai nel mondo. E fra l'altro questa seconda antologia, non perché l'abbiamo deciso a priori, ma perché così ha voluto la poesia stessa, ha una forte impronta al femminile, ci sono molte voci al femminile, fra cui tutte o quasi tutte quelle che sono state in questi anni le voci appunto al femminile della cosiddetta poesia transnazionale in Italia, ovvero autrici che, arrivate in Italia da altri paesi, hanno adottato l'italiano come loro lingua principale di scrittura, arricchendolo e diciamo confrontandolo con tutto quello che era il loro retroterra culturale, il loro retroterra linguistico dei paesi da cui provenivano e delle varie vicende di immigrazione e di erranza, diciamo così, per il mondo che avevano avuto, fra cui per esempio Barbara Serdakowski, che è l'autrice che apre l'antologia, nata di origine polacca ma ha vissuto in Canada, ad Haiti, insomma è stata in vari continenti, e in questa antologia abbiamo pubblicato alcune sue poesie multilingue, che sono testi poetici in cui lei traduce simultaneamente alcuni versi in più lingue contemporaneamente, dal polacco al francese allo spagnolo all'inglese, e dando vita appunto a tutto un gioco di senso poetico e a tutto un incontro fra vari linguaggi all'interno di uno stesso testo. E molte di queste voci al femminile, fra l'altro, fanno parte di quello che è stato di fatto che è stato ed è di fatto il primo progetto di poesia transnazionale al femminile che c'è stato in Italia, che si chiama Compagnia delle Poete, e iniziato a Milano da una critica letteraria che si chiama Miale Comte, e di cui abbiamo il piacere di pubblicare in questa seconda antologia di affluenti 4-5 autrici, se non sbaglio, appunto della Compagnia delle Poete. Ma ci sono anche ovviamente tantissimi giovani, tante nuove voci del vivaio fiorentino e di questo appunto Firenze incontro di popoli e di culture, e ci piace per questo, no, questa seconda antologia, anche perché siamo riusciti a mettere insieme, come nella prima, tanto autori, diciamo così, più navigati, quanto alcune di quelle che sono secondo noi le giovani voci più interessanti attualmente del contesto fiorentino. Questa sera ne ascolteremo alcune, sia appunto giovani e meno giovani, e io la lascerei adesso la parola a Marco Incardona, che è insieme a me l'altro curatore appunto di Affluenti Antologia e di Affluenti Collana Editoriale, che credo che ci leggerà un estratto dall'introduzione che ha scritto a questa seconda antologia e che ci restituisce appunto un po' il senso di questo percorso che abbiamo fatto e di questo progetto poetico che abbiamo. Allora, il concetto che troverete nell'estratto che vi leggo è il seguente, che è in parte già in ciò che ha detto lui. Avendo fatto una seconda antologia, ho sentito il bisogno di coerentizzare, cioè di rendere con un'introduzione scritta quello che avevamo fatto con un processo di varie fasi. E la proposta che faccio e che facciamo, come tutti noi, è quella di distinguere il piano della globalizzazione, che io, che vengo da un vecchio movimento no global e che ero a Genova, ho sempre visto come una cosa negativa, e il turbocapitalismo. Per molti decenni queste cose sono state viste unicamente come cose strettamente correlate. Ho capito, proprio trattando e lavorando su questi piani multilinguistiche e questi piani multietnici che erano già presenti a Firenze, che imprigionarsi da una critica radicale a priori non liberava le forze e le energie. Quindi io ho cercato semplicemente di proporre in quest'idea un'idea di città che fosse, e quindi non inerente al concetto di no global come radicale in quanto già turbocapitalista, ma quanto globalizzazione come un processo che potesse essere, possa essere, dipende da noi ovviamente, messo per incanalare quello che è il vecchio discorso dell'emancipazione. Per cui non lasciarci prendere e intrappolare dall'idea che la globalizzazione sia un processo che porta conseguentemente, da un punto di vista dialettico, all'oppressione del turbocapitalista, ma in quanto sia una prospettiva, quindi un bivio, a cui spettano gli attori sociali andare in una direzione piuttosto che un'altra. Ve lo leggo, scusate se faccio un po' come Maurizio Grande negli spettacoli di Carmelo Bene, ma è più semplice. La scommessa principale che abbiamo voluto mettere in rilievo è proprio quella di partire dialetticamente da ciò che effettivamente la decantata globalizzazione ha prodotto come dato irreversibile, piuttosto che muovendo dalle griglie interpretative e dalle categorie culturali ormai passate e prodotte da un contesto storico-sociale superato. Alla costruzione identitaria cittadina basata sulla dialettica storico-culturale che ha costruito l'Italia come nazione dei mille campanili, delle città gelose della propria storia, delle proprie particolarità, abbiamo preferito la proposta della sociologa americana Saskia Sassen, che legge la globalizzazione come un fenomeno capace di destrutturare in maniera irreversibile le logiche e le dinamiche dei vecchi stati nazionali e canalizzarsi piuttosto in vere e proprie città globali assolutamente mondiali e transnazionali, specializzate in ambiti economici e culturali di portata globale. Città dunque abitate da persone la cui logica è propria della globalizzazione. Non si può far più finta che non sia così. Scrivevo, sempre nel mio, questo non è importante, se è vero certamente che la cultura italiana e fiorentina rischiano davvero di affievolirsi poco a poco e inesorabilmente nelle strettoie inarrestabili della globalizzazione e dell'omogenizzazione del pensiero unico oggi imperanti, è anche vero il contrario, ovvero che i propri figli della globalizzazione di una Firenze multietnica rappresenteranno non solo il futuro sociale della città, ma anche quello culturale. La loro complessità culturale non solo non distruggerà l'autentica singolarità di questa città, ma la rafforzerà aprendola a nuovi stimoli e a nuovi slanci. In questa ambivalenza ottica, nella quale Firenze sembra uscire faticosamente dalla visione di se stessa come coda della propria gloriosa storia passata, il fatto che proprio questa storia gloriosa la renda quasi naturalmente una città della globalizzazione, un luogo di attrazione potenziale per artisti e scrittori del mondo intero, si gioca, a mio avviso, l'espace littéraire, per dirla con le parole di Maurice Blanchot, nel quale provare a suscitare un gruppo poetico capace di criticare la globalizzazione a partire da quello che essa ha prodotto come dato irreversibile e non basandosi su categorie residuali, e soprattutto individuare le potenzialità globali che la Firenze liberata dalle sue mura può finalmente produrre. Avere chiaro questo compito significa accettare l'inevitabile ibridazione di linguaggi e l'eterogeneità delle forme espressive di molto dei protagonisti del gruppo, mantenendo però fermo il tentativo di costituire uno spazio che si insinui e si incunei potentemente proprio nelle contraddizioni che sono state appena delineate. Nel fondamentale libro La questione della tecnica, Martin Heidegger, occupandosi proprio dei cambiamenti irreversibili che la tecnica aveva apportato nella civiltà occidentale e non solo, aveva citato un famosissimo verso del poeta tedesco Friedrich Hölderlin, dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva. Ecco, finisco con questo verso per dirvi che bisogna stare nelle contraddizioni anche terribili della globalizzazione per fare in modo che la globalizzazione sia un orizzonte di emancipazione, anche nella poesia. Grazie Marco, e sicuramente, appunto, come dire, quando si dice trasformare i problemi in opportunità, no? Appunto, le molte contraddizioni e per certi versi i cambiamenti irreversibili che il mondo globale ha prodotto, anche se poi, insomma, con tutto quello che è successo recentemente non è più così scontato neanche questo, ma tutto questo ha aperto anche delle prospettive di emancipazione, di incontro fra popoli, fra culture, fra linguaggi, che questo progetto di Affluenti cerca di fare proprio e di portare, appunto, verso un'ulteriore dinamica e prospettiva di possibile emancipazione umana, prima che, appunto, di qualsiasi cultura o di qualsiasi lingua in quanto tale. Iniziamo con le autrici e gli autori di questa sera. Se trovo l'indice vi dico anche con chi. Fra l'altro, scusate, ma abbiamo fatto tutto quasi le presentazioni tranne una di quelle fondamentali, ovvero questa sera le letture della seconda antologia di Affluenti saranno accompagnate dal nostro percussionista Emanuele Ramaio, a cui vi chiedo di fare fin da subito un grande applauso, che ha già accompagnato, fra l'altro ha già partecipato a molte delle nostre serate, e che ringraziamo anche questa sera per essere qua. La prima autrice che vi presentiamo è, appunto, una delle poete, appunto, delle membre dei membri, perché credo purtroppo sia un termine solo maschile, ahimè, e della compagnia delle poete che citavo poc'anzi, ovvero di questo progetto di poesia transnazionale al femminile in Italia, Lei si chiama Brenda Porster e dalla città natale di Filadelfia, culla della rivoluzione americana, è arrivata a Firenze, culla del Rinascimento, ed ha attraversato i versi inglesi per approdare a quelli italiani. Scrive in entrambe le sue lingue identitarie e le sue poesie appaiono in numerose antologie poetiche e riviste letterarie, sia in Italia che all'estero. Nel 2013 la poesia Una lettera, che è contenuta in questa seconda antologia di Affluenti, ha vinto il premio nazionale italiano Donna e Poesia. Brenda Porster. Allora, grazie Marco, grazie Edoardo. Mi sentite? Perché? Ok. Veramente ringrazio per questa occasione voi per essere venuti, per essere qui, e anche i curatori di questa antologia, che è veramente una raccolta ricchissima di voci molto diverse fra loro. Ora qualcuno sentirete stasera, abbiamo fatto una lettura precedente alla Villa Strozzi ed è veramente, mi ha colpito di nuovo in quell'occasione, di quanto sono diverse le voci della poesia e quanto è diversa la declinazione del termine di poesia. Quasi quasi bisognerebbe, credo, parlare di poesie, perché la poesia non è una cosa, è tante cose, è veramente molto ben illustrato in questa antologia. Allora, un po', va bene, avete già sentito che la mia voce porta l'accento dalle mie origini statunitense, però in questa antologia ci sono alcune delle poesie che ho scritto direttamente in italiano. Comincio con una che un pochino fa un confronto fra una delle città che ho abitato, che è New York, e l'attuale mia città di residenza. È un po' del cuore, anche se la mia esperienza di vivere a Firenze è un pochino quella di un amante tradita dalla sua città, un po', però questo. E si chiama Dreamy City. Prima di tutto devo chiarire che non ci sono cunicoli grigi, marciapiedi stretti che scoraggiano amore o amicizia che sia, strade che di notte rimandano urla di ragazzi fatti o ubriachi che siano, cumuli di vetri rotti. Sorvoliamo sui lavori stradali virtualmente infiniti e imbrutenti quando sono infine, semmai, terminati. Cacca di cane. Ma nella mia dreamy, creamy city, ampi marciapiedi accolgono braccia intorno alla vita dell'amico amore mentre camminiamo fino al grande parco completo di laghetto e barchetta, contornato da pareti di vetro riflettenti un'infinita luna e un fiume nero di notte si riempie della luce di fare. Le facce degli abitanti sono di tutti i colori del gelato: crema, nocciola, caffè, pistacchio, cioccolata. Ora leggo una lettera che è la poesia. No, non faccio. Che appunto aveva vinto il concorso anni fa. Una lettera. Sono ancora convinta, mio caro, che è tutto questione di potere. Il tuo amico Dio entra di nascosto nel nostro giardino a spiarci quando e come gli piace, senza un minimo di ritegno. Ti pone divieti assurdi e poi si sente grande quando vede come tu, da bravo ragazzo ubbidiente, gli dai retta sempre. A dire il vero, a questo patto tra uomini non ci ho mai creduto. Si capisce che con me non ci avrebbe neanche provato. Mi puoi spiegare poi perché di tutti i frutti è la conoscenza che ci è proibita? Saper distinguere il bene dal male, poter scegliere il giusto. Avrai capito ormai, il serpente non c'entrava affatto. Ero io che volevo dare un taglio definitivo. Basta al giardino recintato, l'aria profumata, delizie comandate, il sesso innocente, insipido, spiato. Non riuscivo a prendere fiato. Su, andiamocene di qua, là fuori, c'è il mondo, diviso, mortale, libero. Allora, questa prossima si chiama per l'appunto Hair e di nuovo parlo un pochino delle mie trascorse americane. È da una raccolta basata sulle fiabe dei fratelli Grimm. La raccolta si chiama Grimm. E c'è la maga che ci entra qui a rovinare la situazione, che si chiamava nel racconto la signora Gothel. Questo il racconto sarebbe quello di Rapunzolo, dove appunto i capelli sono molto importanti. Okay. In quegli anni, quando pelo era parola d'ordine, vidi per la prima volta una in posa per tuffarsi. Aveva le ascelle ricoperte ed era bella. Ed erano gli stessi anni delle nuotate nude nel lago con, dopo le lunghe discussioni, se usare o no la violenza per fare la rivoluzione. Ma noi la rivoluzione l'avevamo già fatto con le nostre ascelle pelose e i capelli ondeggianti lungo schiene, sottili come torri. E la musica, la musica, la musica. In quei giorni. Poi venne la signora Gothel e recise le nostre ciocche e la polizia a Chicago uccise i Black Panthers e Bob Marley smise di cantare a soli 36 anni e io per i miei 30 decisi che essere adulta voleva dire farmi un taglio corto. Allora, leggerei un inedito come ultima cosa da una specie di bestiario che sto via via facendo e spero sarà pubblicato prossimamente. E questo si chiama L'elefante. C'è un elefante nella stanza, familiare come un marito, più ingombrante, con orecchie più grandi, ma non tanto. Sarà un elefante indiano, ha anche un carattere mite, ma non sempre. L'elefante sta sdraiato sul divano. Guardiamo insieme un film. Ascoltiamo una fuga di Bach. Lui ha una memoria leggendaria. Ama le coccole. Si duole per una matrigna morta. L'elefante nella stanza è lontano, è un continente dal fogliame impenetrabile. Si arriva al cuore tenebroso solo a colpi di macete. Grazie, grazie veramente a Brenda Porster, e penso che è un piacere veramente sapere e conoscere che a Firenze ci sono da anni queste voci che hanno arricchito la nostra cultura, la nostra letteratura di questi contributi poetici. E proseguiamo questo viaggio nella seconda antologia di Affluenti. Proseguiamo questo viaggio nella seconda antologia di Affluenti, passando appunto da una prima delle nostre autrici transnazionali che abbiamo ascoltato a uno dei nostri autori, invece credo Fiorentino Doc, poi ce lo dirà lui, ma credo sia appunto una delle nostre voci del vivaio fiorentino, fra alcune fra le voci più interessanti che abbiamo avuto il piacere di conoscere in questi anni. Lui si chiama Massimo Acciai Baggiani, nato a Firenze nel 75, laureato in lettere, e con una tesi sulla comunicazione nella fantascienza, e redattore della rivista L'Area di Broca e autore di una ventina di libri editi. Massimo Acciai Baggiani. Sentite? Mi sentite? Ok, uso questo. Allora, buonasera a tutti, ringrazio, sì, come è già stato detto, io sono nato qui a Firenze, sono qui fiorentino, però mi sento cosmopolita, cittadino del mondo. Ho viaggiato molti posti e spesso i miei viaggi sono state ispirazioni per le mie poesie. Ora, per questa antologia, di cui ho l'onore di far parte, ringrazio ancora i curatori che mi hanno ospitato, ho scelto alcune poesie un po' vecchie, a cui però sono legato. Comincio proprio... Sì, grazie. Grazie mille. Comincio proprio con questa poesia intitolata Montpellier, il mio paese, che esprime quanto ho detto adesso. La geografia del cuore non segue linee né confini. Ci sono luoghi vicini e lontani dove ho posato sguardi e respiri. Non all'Italia, a Firenze o al quartiere volgo il pensiero, ma al vero aspetto del cielo notturno, che è ovunque uguale, e ovunque m'accoglie, e non coglie distingui continui sulla carta. È mille contorni che abbraccio con gli occhi, è mille ritorni e nomi che vissi. Grazie. Poi vi leggo una poesia... Visto che siamo in ambiente universitario. Pronto? Siamo in ambiente universitario, questa l'ho scritta all'università tanto tempo fa. Momenti. Ci sarebbero tante cose belle nella vita, atte a suscitar meraviglia. Anche la finestrella di un cesso universitario che incornicia un cielo azzurro può riportare la mente a giorni più sereni, passati per sempre. Anche un rumore che risuona in una vasta aula vuota è qualcosa senza tempo, atavico. E poi una poesia un po' dal sapore crepuscolare che si intitola Lasciatemi in pace. È un po' alla Palazzeschi, insomma. Lasciatemi in pace, non lo vedete quanto sono stanco? Lasciatemi qui, come una cosa qualunque, appoggiata sulla terra. Vi lascio alle vostre corse, alle vostre lotte. Io per oggi stacco. Sento i miliardi di anni del mio DNA, la gravità che mi lega dolcemente al suolo, le molecole che scivolano le une sulle altre. E ancora mi piace immergermi nell'oblio. Grazie, grazie. caso dell'ultima lettura e poi grazie. Vabbè, concludo con questo notturno numero 2, mi sembra in tema, insomma. Ci abbiamo anche l'atmosfera, ecco. Perfetto. Sì, di questo ne facevamo anche a meno, di questo scrosciolio. Però, vabbè. La notte non mi è più amica, ma ancora una sua dolcezza, quella dei gesti misurati e composti, della voce calda e vasta, del silenzio mai assoluto, del sonno che arriva come un amico discreto. A volte mi trovo ancora in piedi, ne sono indispettito, ma non troppo. Il giorno è finito, non ancora. Si prolunga come un'ombra nella mente, cerca i miei occhi lucidi che anelano chiudersi e riaprirsi su un nuovo giorno. Grazie. Grazie Massimo. Sì, perfetto. E proseguiamo questo viaggio mentre la pioggia ci accompagna in pieno spirito affluentesco. E in questi anni affluenti, oltre appunto a molti scrittori, poeti conosciuti a Firenze, provenienti sia da queste città che da tante altre città e altri paesi del mondo, ha incontrato anche artisti visivi, persone che lavorano nel mondo del teatro, e alcune di queste in particolare hanno iniziato il percorso insieme a noi curando alcune letture ai nostri eventi o ad alcune presentazioni della nostra casa editrice, che è Edizioni Ensemble. Abbiamo avuto poi il piacere di scoprire che molte di queste persone che abbiamo incontrato tramite altri linguaggi oltre a quello della poesia, poi facevano del linguaggio poetico stesso il loro modo di esprimersi, non solo nel teatro, nella musica, nella danza, nell'arte visiva, ma dall'incontro con affluenti poi questo percorso è nato, è iniziato e proseguito anche in termini di produzione scritta, no? Quindi di testi poetici che poi abbiamo scelto anche di pubblicare appunto in alcuni casi in questa seconda antologia. Una di queste nostre autrici è Margherita Lo Consolo, pugliese di origine, che appunto dopo aver iniziato il percorso con noi come lettrice agli eventi di Affluenti ha partecipato al primo contest poetico di Affluenti arrivando finalista, e quindi avendo, diciamo così, come riconoscimento fra virgolette la pubblicazione di alcuni suoi testi in questa seconda antologia. Signore e signori, Margherita Lo Consolo. Buonasera a tutti, io ho iniziato questo percorso e devo ricordarlo Hassan Atiyah al-Nassar, che magari voi conoscete benissimo, e ho iniziato con le letture agli eventi, dopodiché questa strada si è allargata e si sono aperti dei varchi, e quindi eccomi qua. La prima poesia, traffico di anime, fuoco d'artificio sboccia nella notte, pulsa nel buio, il mare calmo ondeggia, guardo l'orizzonte con la luce negli occhi. La vita scorre nella turgida carne, avanzo fiera, il tempo amico, al confine della notte, verso le tenere luci dell'alba, un boato squarcia la mia carne cruda in mille pezzi. Morta, nell'onda rivoltante del limpido barcone, nunzio di false chimere, foriero di sciagura certa, commercio insidioso fuori dal tempio. Non so se posso sentire, non sento più, insieme ai miei pezzi volteggio sott'acqua, le mie carni nutrono i pesci, manti di ingorde succhiano la mia anima per i loro sporchi inganni. 23 settembre 2017, ore 2:20. E poi, come mi succede spesso in occasione degli eventi, appunto, ho scritto un paio di testi che ho detto. Drop over. Vediamo se di qui leggo meglio. Batti, straccia, cartoccia, lancia, sbatti, straccia, cartoccia, lascia, dal fiume lascia di pace, d'amore, di fede, ma chi ci crede? Lancia la fede, alta, riduzione su terra scaltra, entra nell'ombra che monta, vita che incalza e tramonta senza fio, senza impronta, pantarei senza dei, echi confusi, ricordi refusi, pensieri ottusi, gira la crema che impazza, la vita che afferra e strapazza. 23 settembre 2020, 5:15. Il dolore necessario, questo terreno ciottoloso, scosceso, senza appigli. Che mi fermi l'anima di Tizio, che mi fermi l'anima di Caio, e Sempronio sembra un demonio, ma non lo è se sei libero. Un consumista letterario o un comunista arbitrario. Anche i pini hanno spinato in questa torrida giornata di sole apparente, nell'arido sentiero ciottoloso che scoscende senza appigli. 25 luglio 2020, 10:25. E mi perdonerà Edoardo, volevo salutarvi con una delle poesie, delle ultime poesie inedite di Hassan. Beh, diciamo chi è però questo Hassan a questo punto. Hassan Atiyah al-Nassar era un poeta profugo iracheno che ora non c'è più, scappato con i suoi amici intellettuali dall'Iraq, ha avuto la famiglia massacrata da Saddam Hussein e qui nel 79. E niente, si è laureato qui da noi presso la facoltà di lettere, la sua tesi di laurea poi è stata adottata come testo all'Università di Milano, e era uno dei massimi poeti ancora viventi dell'esilio, e comunque era un amico carissimo, un grandissimo dispensatore di umanità. Non c'è più, è morto il 25 dicembre del 2017. E purtroppo sì, a volte i servizi sociali e le istituzioni si prendono cura delle persone in base alle opzioni disponibili e non in base all'essere umano, diciamo soddisfacendo le esigenze dell'essere umano specifico che hanno davanti. Purtroppo, abibeti. Non ce la faccio a cantare ancora, non più adesso, la morte di ciò che più amo. Non cercare nella mia chiarezza, non farlo, ti prego, il risvolto che annulli il dolore. Ma la parola è parola. Imprecisata quantità di materia, si levi l'enfasi diversi mai uditi, la nuda parola scabra di doni. Seminammo il silenzio di cadaveri, non sono cresciuti. Hassan. Hassan per noi è come un padre spirituale, quindi vorrei che lo ricordassimo insieme. questa sera la dedichiamo a lui, come tutte le sere che non abbiamo potuto dargli. L'abbiamo incontrato troppo tardi, lo abbiamo conosciuto come poeta troppo tardi, ma lui come poeta ci sta illuminando il cammino, si può dire? Decisamente, fra l'altro non solo era un carissimo amico a Sanati al-Nassar, ma è stato anche l'autore con cui abbiamo iniziato la prima antologia di affluenti, che si apriva appunto, pensate insomma, nel 2016, aprire un'antologia di nuova poesia fiorentina con un autore nato niente meno che nell'antica Ur, attuale Nasseria, ovvero in una delle culle della civiltà. Ma è stato fra l'altro anche l'autore con cui abbiamo iniziato anche questa avventura con la collana editoriale di Affluenti, riuscendo a ripubblicare, ha pubblicato una nuova edizione del suo ultimo libro, Il Labirinto, con diciamo in aggiunta anche le poesie che lui aveva pubblicato appunto inedite fino a quel momento sulla prima antologia di Affluenti, oltre ad alcuni testi inediti che abbiamo trovato dopo la scomparsa di Hassan, fra cui quello che vi ha appena letto Margherita Lo Consolo, che ringrazio anche io per questo ricordo di Hassan, che fra l'altro in molti qua alla Polveriera conoscevano. Proseguiamo questo viaggio nell'incontro multietnico fra culture e fra linguaggi nella nostra Firenze, e da un'autrice appunto nata in Puglia e arrivata a Firenze per lavoro, Margherita è bibliotecaria presso l'Università di Lettere qua a Firenze. Chiamo sul palco un'altra delle nostre diciamo autrici autoctone, per così dire, ovvero Federica Bembo, che è nata a Firenze nel 91 e si è laureata con la maturità scientifica nel 2010. 4 anni dopo Booksprint Edizioni ha pubblicato il suo primo libro, ovvero la silloge poetica Nuvole e Sogno. Nel 2015 Federica Bembo ha vinto il premio nazionale di poesia Mario Gori. Allora, io volevo leggere un monologo che si chiama La leggenda della tuttologa. Stavo tentando di risolvere un esercizio di sciocchimica. Era l'ultimo dell'esame di scienze dell'università. La domanda era: quante parole ci sono in un vocabolario? Cioè, brulicavo nel buio. Cioè, non per fare del torquilopio, ma io non sapevo che cozza di pesci pisciare. Indentiamoci, di solito non sono un pozzo di scemenza. Però era un po' che non mi trovavo in un simile ciclo vieco. E niente, all'improvviso vedo una garazza che mangia un avocado. Immolinazione! Lo sanno tutti che i problemi di quantità si risolvono con il numero di avocado. Allora la fermo e le chiedo: quanti avocado hai mangiato? Lei: non parlerò se non in assenza del mio avvocato. Io: ma ce l'hai in mano? E lei mi guarda spaventata. E niente, poi spaccata. E l'avvocato con lei. Pensavo di aver perso tutte le pietanze. Poi però ho capito che questo era un massaggio dal cielo. La risposta corretta era che le parole del vocabolario non si possono contare. Perché il numero di verità non si può contare. Lo so, sembra una leggenda, ma è davvero così che sono diventata la tuttologa della post-verità. E se tu non hai foraggio di credere alla verità, beh, temo che niente ti potrà salvare. Leggo anche questa, si chiama A Star is Born. Sempre caro mi fu questo border collie e questo setter che da ogni parte della sua vita mio marito esclude. Ma sognando e mirando interminati uomini di là da quello e sovrumano amore e profondissimi orgasmi copulando fingo. Ove per poco il cane non si spaura. E come lo vedo con odio aprire queste gambe, il fallo del border collie a quello del setter va comparando. e mi sovvien l'eterno, il morto marito mio. E il presente è vivo e i can di lui. Così in questa caninità annegherò l'uomo mio, e il naufragar gli sarà dolce e senza bare. Ne posso leggere un'altra che è un po' su un altro tono e si chiama Era solo un sogno. Andai in bagno e dopo mezz'ora lo feci. Bevi un po' di detersivo, perché in fondo la vita non ha senso, perché ho solo 12 anni e sono già triste, perché a nessuno importa di me. Dopo tutto diventò blu. Così mi accorsi di essere in un sogno. Provai un certo sollievo. C'era una parte di me che voleva ancora vivere. Sentivo che ci sarebbero state delle conseguenze. Da allora le mie notti sono sempre blu. Mi sveglio e penso, era solo un sogno. Mi alzo, faccio colazione ed inizio a fingere di essere felice. Andai in bagno e dopo mezz'ora lo feci. Bevi un po' di detersivo. Non conosco il motivo del mio gesto. Fortunatamente lo dissi alla mia famiglia. Mio padre non voleva, ma mia sorella chiamò al 118 e raccontò l'accaduto trattenendo le lacrime. Sarà stato un anno fa. Sono ancora depressa. Anche se la tristezza è un vizio e continuo a tagliarmi di nascosto e a fare sogni strani, riesco a ricordarmi che ho solo 13 anni. Ho tutta la vita davanti e qualcuno che mi vuole bene, anche se non sono io. Grazie, grazie mille Federica. Si sente? Sì, ok. E come avete appunto avuto modo di ascoltare, abbiamo voci molto variegate in questa seconda antologia. E Federica, sicuramente, se non tu, noi ti vogliamo bene, questo è poco ma sicuro. Anzi, grazie, e penso anche alle persone che ti hanno ascoltato questa sera. E bravo, un applauso che se lo merita. Ma quando bevi vino o quando bevi detersivo? No, quando bevo detersivo, non so te. Ah, ok, perfetto, va bene. Beh, ormai ci dovresti conoscere, insomma. Io ormai non mi stupisco più di niente. Proseguiamo questo viaggio nella Firenze poetica con un'altra delle giovanissime voci che abbiamo conosciuto qua a Firenze. Lui è Enrico Cavalloni, nato a Fiesole nel 95 e è cresciuto in campagna, secondo quanto ci racconta nella sua biografia, e in cui appunto nella quale ha instaurato un durevole dialogo divenuto poi riferimento nel suo processo di espressione poetica. Pratica la meditazione e grazie al percorso di counseling legato alla mindfulness orienta la sua esperienza nella direzione di un'apertura e di un'investigazione della condizione umana. Enrico Cavalloni. Bravo! Sì, grazie. Allora, intanto voglio ringraziare Marco Edoardo per l'occasione, ecco, ora si sente un po' meglio, per la fortunata occasione che mi hanno dato di essere presente in questa antologia. È vero, ma ok. E oh, scusami. Scusa, grazie. Vieni. Ecco, ora fa. Dicevo anche Jonathan Rizzo per avermi iniziato ad affluenti, il qui presente Jonathan Rizzo, nostro amico. Allora vi leggerò qualche poesia tratta dall'antologia. Migrando, scambi di schianti al suolo morbidi come nebbia, incontri candidi in scontri confusi, chi batte le ali e chi atterra, indifferente. Sole rosso stamani su una pianura umida di notte. Grazie. Il mio manicheismo, mondo diviso ed un tratto l'occhio destro è da una parte mentre il sinistro dall'altra, visione ambivalente, strabismo delirante, esaltato lirismo all'inverosimile come una narrazione creduta per davvero. La mano destra con le unghie mi pizzicotta la sinistra, che con le unghie pizzicotta la sua compagna di una vita. È colpa della prima che ha detto «è colpa tua!» Ora sanguinano e basta, e nessuna lava l'altra. Kangeiko, scoprire. Oltre le coperte si può assistere al concilio segreto delle stelle nel buio. E scivolando giù dal colle, agli ulivi, filosofi silenti nella penombra. E col freddo alle mani, giunti dove il sole sorge, offrire calore a mani fredde. E in un sorriso tutto quel che serve dire. Grazie a tutti quanti. Bene, mentre Margherita recupera il profilattico che abbiamo messo giustamente al microfono, e grazie Enrico, altra delle giovani voci molto interessanti che abbiamo in questa seconda antologia di affluenti, ma come dicevo abbiamo in questo nostro percorso abbiamo conosciuto oltre che poeti, scrittori, anche persone di teatro e per esempio musicisti come il nostro Emanuel, e anche degli artisti visivi, fra cui Gabriella Beccarelli, che è molte di queste cose contemporaneamente. Gabriella, fra l'altro, oltre ad aver partecipato anche lei al primo contest poetico di affluenti, è stata colei che ha vinto, niente meno, che il primo e unico fino a questo momento contest poetico di affluenti, in attesa del secondo. Ha vinto il primo contest poetico di affluenti e ci ha mandato appunto dopo il contest un suo manoscritto che poi è diventato uno dei libri che abbiamo avuto il piacere di pubblicare in collana, ovvero Apri a caso, il caso non esiste, libro di poesia che è un excursus poetico appunto nell'arte visiva moderna e contemporanea, ispirato al saggio di Jung e di Pauli che dette vita in qualche modo, che è stato forse il primo scritto, il primo saggio che ha fatto da precursore a quelle che poi sono state sia le teorie di Jung sull'inconscio che quelle della fisica quantistica da un punto di vista appunto della scienza fisica. E questa sera ci leggerà alcune delle sue poesie in questa seconda antologia che sono poesia totale. Gabriella Beccarelli. Diamo una disinfettatina, sì. Vedi tu. Una bella disinfettatina. Come va poi? Occhio, aspetta che sennò ci inciampiamo. Perfetto. Ora sono proprio in una botte di ferro. È mio! Sono un gatto parigino. Come si fa un... Un po' sta spiovendo per fortuna, perché veramente prima faceva un po' di musica. Ma... Bonsoir. Allora, adesso tenterò di leggere, perché in genere le stampo sempre le mie poesie, perché non vedo bene senza occhiali, ma mi metto gli occhiali e quindi quelli da vicino. Le leggerai male. No. Ecco, magari quando tiro sulla testa vedo tutta una nebbia, ma non importa. Allora, non so se queste sono poesie, diciamo che sono dei testi. Non perché io amo la poesia, però a volte non mi piace dare né i titoli né definirla come poesia. Diciamo che forse è poesia. E sono due testi che si intitola Dammi un piccolo indizio. A volte succede che da un dettaglio, per esempio in un'opera d'arte, no? Da un dettaglio si cura, ok? Oppure, non lo so, in una situazione caotica come per esempio questa che viviamo adesso, un dettaglio, un indizio ci può aprire una strada, far capire qualcosa. E quindi, dammi un piccolo indizio. Occhiali. Dammi un piccolo indizio per ricomporre l'intero. Troverò, come dice la scienza, l'infinito in miniatura. Un dettaglio, uno dei tanti, dalla piccola foglia allo sguardo distratto, al rumore dell'acqua, scarto differenziato al passo dentro la stanza, bagnata d'assenza. Dammi un piccolo indizio per ricostruire la fuga, per non ritornare sempre allo stesso punto. Nel vortice dei calcolatori programmati, consonanti, vocali e numeri nel sillabario disperso dell'infanzia. Sono venuta al mondo dove si vendono le stelle a metà prezzo, dove subiamo sgrammaticate istanze di sfratto dall'albero della vita. Dammi un piccolo indizio nello spartito della primavera, dove la rondine sosta, poi spicca il volo verso la sconosciuta libertà, verso il sospiro della verità, fatto di silenzi e versi rampicanti di poesia. Non si butta via niente del maiale, si diceva in campagna una volta, e neanche del cielo, nella poesia totale. A questo punto, poesia totale, e vediamo. Si cerca sempre in cielo, ma dentro questa terra c'è l'albero maestro, talmente grande che tutto sorregge. È la struttura assente all'occhio, l'ordine costante nel ventre del silenzio, su cui sprofonda la parola. Nella saggezza risiede l'umido tempo, così invisibile dall'essere terra da arare. Scortica la corteccia e mangia l'erba, nutri di odori olfatto e ventre, gli occhi di colori che colano e si impastano. Nell'antro scava, scarta, corrodi, muoviti impantanato nelle tue viscere. Ricerca il seme che cresce verso la superficie. È l'altitudine che dà la terra, costituisce il cielo. E l'ultima, diciamo che l'ultima che leggerò è un inedito, si può, vero? E è piuttosto tosta, però mi sembra che si colleghi bene, che si colleghi bene a quello che stiamo vivendo adesso, no? E abbiamo vissuto tutto il periodo del Covid, parlando sempre quando torneremo alla normalità, e come abbiamo visto alla normalità non ci siamo tornati, a parte la normalità non esiste come dice lui, però non ci siamo tornati. E poi forse proprio la parola normalità è quella che mi fa paura più del Covid. Allora un giorno niente, mi sono sfogata e ho scritto questo testo che non è molto allegro, ma perlomeno è un grido. Eh? Oh, 29 aprile, torniamo alla normalità. Quando parlano di normalità, la paura mi assale, uno spavento senza suono, un brivido lungo la schiena. E la poesia appare come una stampella, invece di un grande tramonto quale è. lontano da voi, infognati nel traffico che inverte i sogni verso lo stadio, nei gridi di animali gonfiati per un pasto che inverte cellule e atomi, nei bombardamenti attuati per una vita giusta di mortale comodità e di luci soffuse sotto spirito, vaporizzato dall'odio. Torniamo alla normalità e respiriamo quest'aria finché ce lo permetteranno. Grazie. Beh, chi ha detto che la poesia possa o debba avere a che fare con la normalità? Vai. Ah, ok, sì, e tanto ormai la gobba poetica ce l'ho, quindi non ti preoccupare. Ok. E grazie Gabriella, veramente un'altra delle voci che siamo contentissime di ospitare in questa seconda antologia e nella collana editoriale. E ricordo che c'è il suo libro insieme a molti altri e ci sono anche i gatti al banchino di edizione Ensemble. E proseguiamo questo nostro viaggio con un'autrice che per l'appunto è in uscita anche per la nostra collana editoriale. Lei si chiama Eleonora Falchi, è scrittrice per passione e membro del gruppo Scrittori Firenze e di Internations. Ha pubblicato racconti su diverse antologie e fa parte della giuria anche diverse opere monografiche, nonché ha partecipato anche a due edizioni dell'evento fiorentino L'eredità delle donne. Fa parte della giuria del concorso letterario del gruppo Scrittori Firenze ed è appena andato in stampa il suo ultimo libro per la collana editoriale di Affluenti, Vita che scorre. Eleonora Falchi. Ci possiamo sdraiare? Oh, guarda, così mi sento meglio. Grazie. Allora, va già annoiata abbastanza, ve ne leggo due sole. Ti sei santificato, non ti preoccupare, santo subito. La ruota, rincorri invano ritmi di marchingegni da te ideati, da creatore diventi servo, inadeguato o di onnipotenza illuso. Paraocchi tecnologici ti celano l'essenza della vita, criceto giri senza avanzare. Svegliati e scendi dalla ruota dei più. È l'unica evoluzione che resta. Allora, ora sono ancora più in tema con lui straiato dietro, perché vi leggo una poesia che è nata dopo una cena con amici poeti dove si discuteva del fatto che in Italia la poesia è diventata una cosa da cattedratici, mentre in altri paesi è una cosa di tutti e tale dovrebbe ritornare. E quindi io ho scritto poesia puttana. Puttana! Poesia puttana regna sovrana dall'inizio del mondo. L'usava l'etera per campare, il cavaliere per ammaliare, il cortigiano per il sollazzo del suo sovrano, il laureato per innalzarsi sul colonnato, il contadino per mostrare il suo cervello fino. Tutti l'han declamata ed ella, prezzolata, si è prestata. Oggi però sta pagando il fio di addentrarsi nell'oblio. Grazie Eleonora. Fra l'altro alcune di queste poesie che avete ascoltato saranno nella sua raccolta appena andata in stampa per la collana di Affluenti, Vita che scorre. Mentre in Cardona cerca di infilarmi le mani ovunque. Vabbè, ormai, ma voi non potete capire, insomma, questo non è niente. Esatto. Noi proseguiamo sfidando anche la pioggia, stiamo andando anche verso chiusura, non temete, ma ci teniamo a presentare un autore che abbiamo avuto il piacere di conoscere durante la presentazione di uno dei più importanti, forse il più importante attualmente poeta messicano esistente, che si chiama il poeta messicano, si chiama Alberto Blanco. Lui venne in Italia con un libro tradotto da Ensemble, La radice quadrata del cielo, che fra l'altro è un libro di poesia appunto che ha molto a che fare anche con incontri fra linguaggi poetici e linguaggi quantistici, diciamo così. E recentemente Max Di Mario, che è l'autore che vi presentiamo, nato a Padova e cresciuto nell'urbanizzata costola campestre di Venezia, ovvero Mestre, ha studiato e lavorato, credo, tuttora a Firenze. E vieni Max. E ci fa molto piacere presentarlo, perché da qualche mese cura una rassegna di poesia a Villa Strozzi che si chiama Poesia Ininterrotta, dove, oltre ad alcuni libri della nostra collana che abbiamo là al banchino, abbiamo avuto il piacere di presentare, di fare la prima presentazione della nuova antologia di Affluenti. Mentre in Cardone continua a devastare tutto, io fra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che da ogni lunedì Poesia Ininterrotta ci sarà anche per tutto il mese di ottobre, ogni mercoledì, e magari Max ci dirà quali sono i prossimi appuntamenti. Vorrei essere così. Allora, ok, allora direi di cominciare con una poesia che c'è nell'antologia, ed è, non so se avete mai sentito parlare, probabilmente sì, siamo a un festival di letteratura, dei tautogrammi. Sì, io vivo di tautogrammi, li mangio a colazione. E i tautogrammi sono le poesie, componimenti fatti di parole che cominciano tutte con la stessa lettera. Io ho scelto la S perché ovviamente è una delle lettere che ha più parole nella lingua italiana. E questo qua parla di sanità mentale, di condizione psichiatrica, e si chiama Santità, però con la T tra parentesi, in modo da creare un bellissimo giochetto tra sanità, santità, bellissimo. Quindi Santità, un tautogramma. Sudano sembianze silenziose sopra solchi salati scavati sui sogni. Sembra senza speranza sparire, soltanto svanire. Stop. Sminuzzando se stessi secondo schemi serrati. Servono sistemi severi, sostanze somministrate senza sosta, servili soggetti stravolti, stesi supini sotto soffitti sbiaditi, stanze stantie, sparatorie sedative, strangolamenti sacrificali sopra solide sedie strizzasoldi. Sentenzano sacerdoti sanitari specializzati, seguendo sistematici studi su sintomi somatici. Scarti sinaptici, sanzionati sanificando segni scrupolosamente sintattici, separando sani, svitati, scemi, strippati, sconsolati, santi, straziati, schiavi salvabili solo se sapranno sopportare sbrigative soluzioni sceneggiate su serissimi standard socioculturali. Sentiti studiato. Se stupidamente sorridi, sentiti svuotato, semplicemente sprecato, sbraitano spettrali sinfonie sgrammaticate, senza suonare sensate, sventando soccorsi. Sei sordo, stronzo? Si schiantano schizofreniche schegge sul silenzio sventrato, salvaguardando sentimenti sterili, sicari senza scrupoli, sette sere su sette. Sigaretta svogliatamente spenta, sopra saggezze spoglie, senza sostanza. Sguardo sospeso sei sputi sul suolo. Stremato, striscia, sussurrando sei solo. Grazie. Un applauso alla S al potere. Cos'è il potere di Foucault? No. C'entrava un po', eh. Vabbè, succede. Ci siamo caduti tutti, c'è sempre stato il periodo foucaultiano in ognuno di noi. Allora, e poi adesso un momento a cui tengo sempre molto, quello in cui svelo al pubblico quali sono i tre concetti principali su cui si basa la poesia dall'alba dei tempi. So che è una diciamo Vai, Edo. Io non so cosa sia l'albero dei tempi. Ci sono tre concetti principali che dai tempi proprio di Omero, dei Rapsodi, sono fondamentali. E sono la creazione, la meccanica quantistica e i transessuali. Ho cercato di metterli in una poesia che si intitola Il cazzo di Schrödinger. E fa così. Dio li creò a sua immagine. Come immagine Dio li creò, salvando in PDF un mucchietto di bit e fango impastati. Non era bravo a usare Adobe, usò Paint, con cui da bambino disegnava elementari galassie zoomorfe fatte di neutrini a forma di lontra ed elettroni di carica neutra a forma di torre di Londra. Dicevo, creò l'uomo a sua immagine, da un pixel in basso a destra tirò fuori un biforo naso simile al suo per annusare il sapore del cosmico vuoto. Poi due orecchie simmetriche per udire il mantra vibrante dell'immoto spazio. Poi tre occhi per scrutare gli infiniti passati, presenti e futuri. Anzi, due occhi. Perché vedere contemporaneamente gli infiniti passati, presenti e futuri era un po' troppo sbatti e immancabilmente provocava un'insonnia da uscirci matti. Poi da un altro piccolo pixel trasse un gargantuesco Virgo Polinix per transustanziare l'alfa e l'omega dell'ero steomorfo plafonare. Anzi, Dio che vedeva contemporaneamente gli infiniti passati, presenti e futuri si frenò, allontanò l'esitante mano dal mouse mouseless, distolse lo sguardo dallo schermo da N alla N numeri di gram pollici, che è un numero incommensurabile per la cronaca, e rimase a fissare gli inusitati spazi tra le sue inusitate glabre gambe. L'uomo, riflette Dio, non aveva nessun gargantuesco Virgo Polinix sotto l'ombelico. L'uomo aveva il cazzo, e però aveva anche la figa. Ma era un bello sbatti averceli entrambi giusto apposti in riga. Dio comunque non si perse d'animo, che lui era il padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili, dell'ornitorinco, il fiume Orinoco, gli urinatoi, l'onironautica e delle allitterazioni. Era contemporaneamente figlio e padre di se stesso, increato ma partorito da una vergine minorenne con fecondazione assistita di donatore non consapevole. Insomma, un casino da spiegare alle conferenze della famiglia tradizionale. Pastore di popoli, roveto ardente, unico esemplare di palestinese bianco caucasico e per di più biondo naturale, pioggia di fuoco, pastore di uomini, moltiplicatore di pani, e non sarebbe certo stato un pene a crocifiggerlo nell'impotenza creativa. Quindi si nettò il sudore dalla fronte, metafisicamente intrepido, eroicamente proteso sullo schermo, si schiarì la voce tonante e scandì: ok, Google. Fu più facile del previsto. La lista di cose da fare seguì agile, mise entrambi i genitali orpelli in una pratica scatola quantistica, shakerò bene e la nascose nello spazio di un microscopico pixel, piantato in profondità in un posto che era impossibile vedere, ma che sarebbe stato possibile impegnandosi a trovare. In modo che l'uomo, finché non l'avesse aperta, non avrebbe saputo se davvero dentro aveva il cazzo o la figa, se era uomo-uomo, donna-donna, uomo-donna, e chi e cosa avrebbe cercato per completare l'incastro di quel corpo incompleto, salvato in PDF da un Dio annoiato che voleva solamente conseguire uno stramaledetto patentino informatico e CDL. Grazie. Grazie. Grazie. Devo prendere un'altra. Senti, mi porti un bicchiere di vino? Ce la fai? Mi porta anche un bicchiere di vino, è bravo. No, è rouge. Anzi, come dicevano nel Rinascimento, du vin clairé. Grazie, non Max. Sono in grado di cantare l'aria. Dopo questa lettura credo che tutti conseguiranno quel patentino, ma questo è soltanto un assaggio di quello che troverete a Poesia Ininterrotta ogni mercoledì, anche per tutto il mese di ottobre, rassegna di poesia a Villa Strozzi curata dal anche nostro affluente Max Di Mario. No, non si può. No. Oh, Pippa. Je suis venu te dire que je m'en vais. No. Bene, adesso in Cardona vi canterà una canzone neomelodica in francese che troverete nel disco allegato alla seconda antologia di Affluenti. Sincèrement, ma che siamo tutti... Oh, Anvedi. Anvedi, oh. Se me lo concedete, visto che abbiamo parlato appunto... Bene, non sembra, ma ci amiamo. Beh, ma peggio per voi. C'est l'amour. Peggio... L'amour, per dire... Ciao. Ci vogliamo bene, ma non troppo. Ciao. Lo dicevano i mercanti. Ah, scusate, un applauso a Margherita che oggi festeggia gli anni. Grazie. Io no, e quindi auguri Margherita. Oggi è anche il suo compleanno. Ed è venuta a festeggiarlo qua con noi. Fra l'altro, fatto bere un buon prosecco, devo dire. Diceva giustamente il nostro Marco che il pubblico sta stoicamente resistendo, non soltanto frontalmente, che poi la poesia. Ma non leggere il testo surrealista. Tutto dovrebbe essere tranne che qualcosa di frontale. Soprattutto il testo soprattutto il surrealismo e il dadaismo, tutto dovrebbero essere tranne qualcosa di frontale, ma sta stoicamente resistendo anche al nostro lato, e quindi mi suggeriva giustamente leggete qualcosa anche rivolte a questi poveretti che vi stanno ascoltando e resistendo alla vostra destra. Allora, siccome abbiamo parlato di un'antologia multietnica e cosmopolita con anche tante voci al femminile e tante voci anche della poesia transnazionale al femminile in Italia, se me lo concedete, siccome dovevamo avere anche un'altra lettrice stasera, Laura Remaschi, che poi per impegno non è potuta essere con noi, leggo io un paio di poesie di due delle nostre autrici transnazionali che sono in questa antologia, e una rivolta verso di voi e una rivolta verso di loro, mi sembra giusto. La prima poesia che vi leggo è di Miki Zappingio. Lei è una poetessa e scrittrice nata a Sarajevo nel 77, che si è laureata all'Università a Firenze, e ha lavorato tanti anni come traduttrice e ha collaborato con cooperative sociali, ONG ed altre associazioni. Attualmente vive a Milano, ha avuto anche alcuni riconoscimenti nel panorama letterario italiano. E mi rivolgo frontalmente, prima che la luce ci abbandoni del tutto, con questa sua poesia, con questa poesia di Miki Zappingio. Nulla, nulla e sembra facile disfarsi, neri chiodi, più neri d'alieri, nulla, tranne la morte, gesto del voluto, non futuro, l'unica vera bocca che cuce, addobba e a niente che corrisponda. Per questo vivo senza futuro, per quel battito spento nel mare, mare del cimitero dell'umanità, lontane le tuniche dell'Africa. Prendo in prestito le parole, il foglio ed i lunghi graffi del mattino. Barbara Pumosel, per la quale mi rivolgo invece ai nostri ascoltatori resistenti qua alla nostra destra, è un'attrice nata in Austria nel 59, che vive da molti anni in Italia, fra l'altro nel mio comune di residenza, ovvero Regnano sull'Arno, è anche la direttrice della biblioteca dove lavoricchio anche io, e uscirà anche lei presto in collana editoriale di Affluenti con un libro che si intitola Un confine in comune. Ho perso la mia carta d'identità, so ancora chi sono, ma potrebbero anche non credermi. Non posso più andare a un estero diverso da quello in cui sono. Posso soltanto rimanere in questo recinto sicuro. Non posso attraversare il confine. Non posso, perché non sono né un orso, né uno scoiattolo, né una volpe che invece potrebbe. Ma rischia comunque sempre la pelle e la pelliccia. Le frontiere di una volta si sono spostate più in là, con nuovi giri di filo spinato. Dentro, ora regole e pace. Non si producono più le mine anti-uomo. Soltanto i singoli pezzi nostrali e fatti in casa, pronti per essere assemblati fuori. Immissione di virtuali milioni sul mercato affamato, come soltanto i mostri creati dagli uomini sanno esserlo. La guerra è potere, il potere si prepara con parole vuote. Gridate, simulacri e cloni, è ora di agguerrirsi contro, quando la pubblicità si fissa, sull'apparato digerente, quando le donne in TV sono più nude, più mute che mai, quando i politici alzano il volume, tra brutte copie e déjà vu, e il mondo gira come deve. Quando nelle fabbriche d'armi aumenta il lavoro, quando alle parole si cambia involucro, di volta in volta, ma all'interno si nascondono sempre le solite macerie riciclate. I soldati hanno sogni giovani e contratti da precari. Hanno da poco lasciato la scuola. A loro nessuno aveva parlato dell'uranio impoverito e del dopo. Oh, bene, quanto tempo abbiamo? Perfetto, ok. Allora andiamo verso la chiusura di questa serata. Intanto vi ringraziamo a tutti quanti, front o destra, per aver resistito all'acquazzone. E vi presentiamo altre tre voci, una che è una delle altrettanto giovani voci che abbiamo avuto il piacere di incontrare in questa, in questo percorso, in questa seconda antologia. Un altro autore che è un nostro autore storico, perché era già presente nella prima antologia di Affluenti. E chiudiamo con alcune poesie Dada o post-Dada di un poeta, di un signore poeta che abbiamo avuto il piacere di conoscere qualche giorno fa a Sant'Ambrogio, che ci ha detto mi piacerebbe leggere con voi qualcosa che aveva iniziato nei lontani anni 60, ma che forse parla ancora a questo percorso che state facendo. E quindi, sempre se recupero l'indice, la prima autrice che vi presentiamo, visto che abbiamo parlato appunto di incontri e contaminazioni fra linguaggi poetici e anche linguaggi musicali, è una cantautrice e poetessa fiorentina. Lei si chiama Chiara White, in arte ovviamente Chiara White, e nel 2011 ha pubblicato una sua prima trilogia poetica, Il Cavaliere della Solitudine, mentre nel 2017 esordisce sul mercato discografico con Bianco Inascoltato. Vincitrice del premio Zonta 2018 per la miglior canzone d'autore e seconda classificata al premio Insieme nel Mondo, edizione 2012. È anche attrice nella compagnia di teatro Gli Strani Tipi, docente di canto nell'associazione fiorentina Nuove Note e organizzatrice di eventi artistico-musicali. Chiara White. Buonasera a tutti. La prima poesia che vi leggo è dedicata a una nostra collega amica che si chiama Gaia Casanova, in arte Miss Poetrix, ed è presente nella seconda antologia di Affluenti. Ne approfitto per ringraziare di farne parte Marco, Edo e anche Jonathan Rizzo, che è colui che mi ha fatto affluire in questa bellissima realtà. Ci siamo mai capiti? Ci siamo ascoltati mai? Al mare rimani, mentre miri a domani, e ti domandi dove siano rimasti simili stimoli zitti. Mi accorgo di me e di avermi perso io l'oggetto che mi sta stretto. È sere, a sé stanti, nella distanza della stanza. La mia testa, pesante di pensieri, quelli di ieri, sempre gli stessi, su questi gesti dell'anima martoriata, alimentata dall'abisso che divora. Niente. Ci giro intorno. Come in tondo casca il mondo, andiamo a fondo sullo sfondo profondo. Sfera. Grazie. Ora, per questa antologia è stato scelto un brano, una poesia, che in realtà è il seguito di una mia canzone. E quindi oggi ho deciso di leggervi prima il testo di questa canzone, che di solito canto, e stasera la leggo, quindi sarà una sorpresa. Vengo accanto a te. Si intitola Praga. Le fiabe di una bambina colorano il cielo di Praga, dove la musica scrive le strade, dove la musica canta le strade, celate dal silenzioso manto che vorrei bianco. Il ponte è lungo da attraversare, il ponte è lungo da camminare, che conduce alla festa danzante, che conduce alle macabre danze, ed ospita oscuri presagi di santi suicidi inascoltati. Non richiamarmi indietro. Io sono su quel ponte, forse sul cocchio, che conduce alla festa danzante, forse ai piedi di un santo, con il mio suicidio bianco. Inascoltato, bianco inascoltato, inascoltato, bianco inascoltato, la e la e la la, la e la e la la, la e la e la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Grazie. E come dicevo, nella seconda antologia di affluenti invece c'è non questo testo che vi ho appena letto barra cantato, ma un altro che è un po' il suo seguito. Infatti sono tornata a Praga qualche anno dopo e ho, non lo so, a volte capita a tutti, credo, di ricercare nei luoghi dei quali abbiamo nostalgia, un qualcosa che in realtà è una nostalgia di un tempo, e quindi si resta inevitabilmente un po' delusi. E questa è Praga o Praga Bis. Dove si cela oggi il tuo spirito? Forse sotto il ponte che conduce alla danza dei morti, forse come i santi, nero suicidio sfuma nel cielo di Praga. È la pioggia a rianimarti all'ultimo rintocco della morte appesa, mentre io vago distratta e non ti vedo nel rumore della folla, non ti sento in quelle note storte, non ti fermo mentre scivoli via. Ma ecco che, laddove le fiabe prendono vita, laddove comincia la macabra danza ed il fiume si tramuta in pietra grigia, ora ti riconosco. Ma è troppo tardi. Già sento i rintocchi, ci richiamano indietro, ed è già ricordo. Grazie. Grazie, grazie Chiara. Fra l'altro Chiara White ha anche suonato, perché appunto è cantautrice oltre che poetessa, ad alcune serate che abbiamo organizzato con affluenti, fra cui una ricordo molto bella, che aveva come tema proprio la poesia, la musica d'autore è una forma di poesia. Questa serata la organizzò un nostro autore che era presente fin dalla prima antologia di affluenti e che poi ha pubblicato anche un libro nella collana editoriale che si intitola La giovinezza e altre rose sfiorite, il ritratto del poeta che fu, ma soprattutto ha in uscita una seconda opera con la nostra collana che si intitola Le scarpe di Flaneur, Jonathan Rizzo. Allora, sono molto contento di essere qui con voi alla Polveriera, perché sono anni che veniamo e ho visto veramente su questi palcoscenici passare di tutto, cose meravigliose e altre... Sta piovendo, vero? Meno male che la notte va avanti. Allora, la mia esperienza con gli affluenti è decisamente composita. Diciamo, vengo dalla notte dei tempi, li ho visti nascere, sono cresciuti molto, qualcuno si è anche ingrigito col tempo, va detto, ma questo del resto tocca... grigio. Tu eri grigio come il teatro di Giorgio Gaber. Allora, sono un affluente originale, come dire, un estuario. Allora vi leggo una poesia dal primo libro che poi è diventato Silloge, La giovinezza, questa raccolta di poemi giovanili. Lo facciamo, maestro. Tra l'altro è bello essere qui col vecchio Emanuele, perché per ovvie ragioni che non sto a raccontarvi non ci vedevamo da qualche mese. Emanuele è diventato papà. Un applauso! E la cosa più bella è che finalmente lui non ha potuto partecipare al concepimento, però almeno ha goduto della nascita della bambina. Io che invece c'ero, devo dire, la bambina è bellissima, Ha preso tutto dalla mamma, grazie a Dio. Ci sei sempre stato. Sono onorato di far parte della famiglia Ensemble. No, famiglia Affluenti. Il ramo Affluenti. Miau. La poesia si chiama Il poeta è uno zingaro in fuga. L'ho scritta quando avevo 20 anni. Tanti 20 anni fa. Il poeta è uno zingaro per antonomasia, girovaga a rullare della fantasia, adora bighellonare per rubare perline colorate al girotondo di bambini con le ali, altri corvi dei piedi pesanti strisciano come tetri pipistrelli immobili nei loro culi grassi, strusciando ai lati taniche di odio e triellina, specchi rotti, crudeli, secchi di maestrini che puniscono con orgasmo, camminando al contrario, saltellando sulle mani. L'acrobata della parola vede chiaro su come non valga la pena imparare parole da scrivere che non siano libertà, che non siano bellezza. Chi non riuscisse a concordare con queste banali riflessioni di pace, soffiate in controluce, in un atto audace, carezza dolce che tace, come aprire uno spiraglio tra la finestra e la mattinata di primavera che fischietta, mai potrà essere capace di vedere oltre la prosa di matematica che lo induce a essere cieco ai fiori del mondo. Pazienza. La luna gigante è un dono che non scalfisce certe preziose punte di nasi pagliacci, fatti quasi a stracci, setellini per vestitini nuovi degli imperatori. Difficile essere invitati a quei tavoli dai calici di cristallo scintillanti, ricolmi del prezioso champagne. Privilegio per privati expirati e principesse dei prati, particolarmente quando sei un ridicolo zingaro poeta da viaggio che prende il largo per non sporcarsi le ali grazie ad accogliere al vento colori sgargianti e goffaggine come sorrisi in volo per una farfalla che non conosce età, non conosce nessun perdono. Abbiamo un banchino, è pieno di libri, vogliamo liberarcene, dateci una mano. Ora, riende scherzando, questa poesia l'ho scritta 20 anni fa e quindi, insomma, come avete visto, era piena di ingenuità. Però ce n'è una che ho scritto pochi mesi fa, il giorno prima che ci chiudessero tutti in casa. La nostra gentile casa editrice, l'Ensemble, il nostro condominio Ensemble, ha pubblicato durante la quarantena, non dico lockdown perché io non amo gli anglicismi, durante il confinamento, come dicono i francesi, al massimo durante la chiusura, come dovrebbero dire gli italiani, ha pubblicato una raccolta di poesie scritte in prigionia, come la chiamo io, e vi leggo una poesia della prigionia che ho scritto l'ultimo giorno che ho visto il mare e si chiama Una serenata del mare. Chiaramente il titolo l'ho rubato a Ugo Pratt. Fuggendo dall'inverno infinito, dai suoi ossuti colpi sotto la cintola, con un desiderio abulico da tossico, barcollando in astinenza, passeggiare a occhi chiusi col maestrale sotto braccio, amico fedele per danzare, accarezzando il mare nel suo suonare, il pianoforte astrale sulla battigia terriccia di sabbia tirrenia delle isole febbrile, arenile, favorito davanzale, come donna in amore, a raccogliere conchiglie e foglie di sole, farne ghirlande di arcobaleni avvenire per le mie palme di silicio e sale, sparse, piccole perle perse, dalle tasche riarse, per le dita terze, forse il mare, ogni Venere in volo, un pensiero annolo, in meno contro cui remare, ospite in un angolo vertigine, vertice luminoso, silenzioso di Dio, armonioso brusio, nota muta, serenata, lieta, alla luna piena, piegata di pietà. Come uomo leggero, col suo dono sorriso, nelle corrose orme cancellate dall'assolo d'archi delle onde. Lezioni di danza per innamorati selvatici e zanzare leziose. Lasciare la luna al balcone delle sue memorie, innaffiare i gerani con le lacrime delle mie sirene, scrivere lettere al mare e fuggire. Mentre il grande mood del maestro Ramaio da Capo Verde ci delizia, vado salutandovi con quello che si chiama un inedito, anche perché l'ho scritto 10 giorni fa e l'ho letto solo a Palermo la settimana scorsa in un tour così sul Mediterraneo di letture e poesia. È una poesia che ho dedicato al pittore Antonio Ligabue e si chiama El Mat. Lui era El Mat, sì, lui era emiliano, no, El Mat vuol dire il matto, il matto. Matto, queste figure che fingiamo di amare e poi apprezziamo che vengano tenute distanti, lontane. A chiacchiere, come dire, tenute in palmo di mano. El Mat. Io lo dico, qua siamo a Woodstock, eh? Parte il concerto dei Santana. I matti, quelli, gli unici a cui Dio rivolge ancora parole, gli scemi, quelli, semi bacati tra i venti fatate, mentre quelli là, i normali, quelli sani, tutto il giorno a pregare Dio giunte mani. I pazzi legati, privati delle carezze, perdono proibito dei malati, rari palati, quelli a cui sono concessi perlati sorrisi, ricamati rissosi abbracci. Quelli là, i folli, carni, ossi, rospi, poveri storpi. I manicomi hanno mattoni maltati, pochi centimetri. Da quelli là. Morello! Affluenti Ensemble! Grazie, grazie Jonathan, Rizzo. Avete perso un libro? Ah, e forse è questo, Gabri? Forse è questo. Perché forse. Guarda, vedi se è questo. È molto pieghettato, sì. Bene, so che certo è tuo, quindi direi ci mancherebbe, tanto ormai abbiamo dato voce a tutti gli affluenti di questa sera. Noi vi ringraziamo fin da adesso per averci ascoltato e per aver resistito a questo acquazzone. Ringraziamo nuovamente la Polveriera, il Festival della Letteratura Sociale, a cui direi di fare un grandissimo, enorme applauso per come sono riusciti non solo a resistere anche quest'anno, ma addirittura a veramente, penso, gettare qualunque cosa oltre la siepe pur di riuscire a fare questa quinta edizione, nonostante la pioggia, nonostante tutto. Quindi tantissimi complimenti e un grande grazie a tutti loro. chiudiamo questa serata e vi ricordiamo ovviamente che la seconda antologia di Affluenti, così come tanti altri libri di edizione Ensemble della nostra collana, la trovate qua, ma la trovate e li trovate anche al nostro banchino poco più avanti. Chiudiamo con una recente conoscenza che abbiamo avuto il piacere di fare durante la nostra ultima serata a Sant'Ambrogio. Lui si chiama Marco Vanini, è un autore, poeta che dagli anni 60, poi lui ci racconterà un po' meglio, ha dato vita a molti progetti di poesia sperimentale, così se così la possiamo definire, qui a Firenze, anche con autori importanti, e ci ha detto delle cose molto belle l'altra sera a Sant'Ambrogio su quello che ha sentito, percepito del nostro progetto di Affluenti, e ci ha mandato alcune sue poesie che lui ha definito poesie dada o dadaiste. Io le ho lette un po', mi ha colpito perché sì, c'è quell'impronta, ma è bella secondo me anche lo scavo, il percorso, la ricerca poetica che tu fai, forse anche andando oltre quella stessa esperienza, diciamo, di ricerca e di sperimentazione. Questo ovviamente dal punto di vista del tutto personale, ma ce ne parlerai molto meglio tu, e soprattutto ascolteremo queste tue poesie dadaiste. Marco Vanini. Vanini o Vannini, scusami, forse mi sono mangiato una N. Vannini, scusate, avevo mangiato una N. Salve a tutti. Chi è che mi ha salutato? Io. Ciao, ehi, ciao. Bene. Una badessa bicefala, un aborigeno allegorico, un bramino butterato e bolscevico, un cardinale a pietto, un capodoglio di Kashmir, un'autopsia boccaccesca, un aborto bronchiale con un addome aulico, acromatico e apologetico, a babordo. Un bachicultore boemo, aborrito, va in catalessi, un ateo agitato, ma sicuramente ateo, a biura, non a caso. Un violinista villoso, un ventriloquo vagamente uxoricida, un testicolo truccato, una zittella travestita da zar con la vagina venale ma versatile, ce l'avevamo pro tutti, ma non mi sono divertito. Questa era dedicata. Si chiamava Festa, era dedicata a tutti voi. Credo dovrebbe aver piaciuto a un amico che ha parlato di ansi. Perché questa è stata composta col computer Commodore 64, per dirvi quanto è vecchia, prelevando da un sistema, avendo immesso una serie di parole a caso dentro un database, prelevandole a caso, quindi una poesia a metà tra l'automatico dadaista e non lo so come altro definirla. Insomma, è chiaro che in questa operazione al computer c'è sempre poi l'autore che ne sceglie alcune piuttosto che altre, quindi non possono essere mai automatiche fino in fondo. Per quanto l'assemblaggio delle parole possa essere del tutto random, però c'è una selezione finale, e questa selezione in parte è dovuta a me, in parte è dovuta a un grande personaggio che a Firenze è mancato troppo presto, che voi non conoscete perché siete tutti dei ragazzi, che si chiamava Mario Pachi, il più grande filosofo toscano della seconda metà del Novecento, ed è, non so se c'è qualcuno che lo conosce, no? Ed è, allora, questa invece è una poesia. Vi leggo, aspetta, no, come dicevi, e segui tranquillo, io adoro la musica e adoro il capoverde, adoro la musica e i capoverdiani, quindi figuriamo. Solo il fiume ha congiunto le nubi all'immoto fuoco che nevica nella brossura. E il fuoco niveo si risveglia in questo lago dove il buio giuoco del crepuscolo non si sporge e alza la sua croce. Accanto ai muri resiste il brivido vivo del gatto bianco che si induce all'aperto, tra l'arduo fogliame che sfiora la duna e alle tenebre si impiglia. Ma il gioco crudele si dilata senza posa e il mutare ultimo urta le trottole del timido riscatto che accanto a me si screzia. Potrei andare avanti un'altra mezz'ora, ve la lascio qui. Perché? Perché questa è una poesia che forse qualcuno di voi ha riconosciuto essere Montale, ma in realtà sono le parole di Montale. Con questo mio grande amico Mario Pachi, con il primo Commodore 64 di cui entrai in possesso, due mesi di lavoro per creare una grammatica, per fargli imparare una grammatica al computer, e con una dozzina di più di poesie di Montale immesse nel computer, la grammatica costruita a tavolino riassemblava a caso parole, verbi, aggettivi del repertorio montaliano e le riassumeva e le rimetteva insieme in maniera del tutto casuale. Il sound resta lo stesso, ma l'effetto è estraniante, tutto sommato. E dice: chi se ne importa? Certo, non importa, però ve ne leggo un'altra. Poi ho finito. In realtà io facevo e ho fatto più di un tempo fa il professore di zoologia, sono stato per molti anni il direttore del Museo della Specola, forse voi lo conoscete a Firenze, ma poi ho smesso, sono andato in pensione e piuttosto che essere un ex professore preferisco fare il giovane poeta. Quindi mi adeguo e sono felice e essere qui e ringrazio gli organizzatori. Quindi sono un neofita in tutti i sensi. Questa è frutto, quella precedente in parte era frutto del Rohypnol. Questo è frutto più che altro di qualche altra, no, droga, di qualche altra cosa che prendevo negli anni, fine anni 70. L'hai detto tu, l'hai detto tu. Fine anni 70. Narra un'antica leggenda cinese che quando il Filobus 21 passava davanti a via del Palazzo Rosso, alla fermata subito prima della casa del re, scendesse un giorno una fata azzurra, piccola come un pipistrello e grande come un sogno. Proprio come un brutto sogno interrotto, la fata era avvolta da una nebbia di colore ovviamente azzurro e di frammenti di preoccupazioni vaganti, di equivoci strappati per sbaglio da letti non loro e da menti distrutte. La presenza della fata passò per lo più inosservata e solo i passeri che caddero fulminati a migliaia nell'inspiegabile e le inspiegabili conversioni di noti ottimisti beoti, alcuni morirono di colpo nel loro letto, fornirono più tardi la prova indiretta dell'avvenimento. Quasi di fronte al negozio di corde, la fata si tolse la tunica di scaglie e sangue secco, spense l'azzurro con un gesto fulmineo e si allontanò, mescolandosi alla folla dei pendolari che avevano iniziato a defluire dalla bocca nera della metropolitana. Brandelli di presentimenti, di eventi rari e di fatto mai realizzati, tornarono ad aggirarsi per un po'. Sogni vagamente oxoricidi, brillanti come luci al neon, gialle fosforescenti, pensieri, frutto di incesti mal sopiti tra segni e sogni, riapparvero. Dapprima strisciando incerti, poi seguendo geometrie ostinate e infine risalendo muri e passaggi a livello. All'alba, prima della corsa del primo filobus, essi si erano già riannidati negli angoli delle cucine e nei cervelli restati incautamente aperti, risalendo lungo le narici, la lingua e gli orecchi. Almeno per quella volta della fata non rimase altra traccia. Sono passati 50 anni, forse in vano o non in vano, a voi decidere. Oh, Edo, chiudi, perché sennò io comincio a leggere Balli Mécaniques, ma è dopo, cosa c'è ora? Beh, adesso saluti, baci, abbracci, tante bevute, spero, per chiudere in bellezza il quinto Festival di Letteratura Sociale, a cui direi un altro grandissimo applauso e un grazie per questa che speriamo sia la quinta di tantissime e tantissime altre edizioni. Fra l'altro ricordiamo che qua ci sono moltissimi progetti qua alla Polveriera e anche tutta una mobilitazione che è andata avanti per riuscire a mantenere questo spazio e questo chiostro che è stato aperto e liberato per questo festival. Non so se Marco ci vuole dire qualcosa anche a proposito. Sì, volevo ringraziare molto Affluenti Edizione Ensemble che da tanti anni partecipano a questo festival e davvero speriamo di essere ancora insieme per i prossimi. Volevo anche annunciare che il festival non è ancora finito, perché abbiamo la terza delle ultime sorprese di questo festival, ovvero uno spettacolo teatrale, durerà circa una mezz'ora. È uno spettacolo che si intitola Quark Room ed è una riflessione sulla autocritica, sulla violenza negli spazi e nei contesti sociali. È stato organizzato dal laboratorio teatrale Post Work, che è una delle attività che svolgiamo qua in Polveriera durante tutto l'anno, assieme a Val di Sieve in transizione. Lo faremo adesso, durerà circa mezz'ora, dopo ci sarà un reprise per concludere assieme la serata e dopo le bevute che ha annunciato Edo, finalmente, assieme a Marco Incardona leggerà una cosa a sorpresa e sarà l'ultimissima sorpresa di questo festival e poi ci lasceremo di nuovo all'anno nuovo. Intanto ringrazio tutti i partecipanti mentre gli attori penso che si stiano preparando. Ricordo che questo è un festival auto-organizzato in un posto che era stato privatizzato dalla regione toscana del Partito Democratico e che invece abbiamo deciso di riaprire di nuovo per questa e tante altre occasioni, ovvero questo chiostro che prima era pubblico, quindi grazie anche a chi sta partecipando a questo festival. Adesso, mentre prepariamo, lascio subito la parola, ci sentiamo di nuovo fra mezz'ora ancora con Affluenti e poi beviamo in compagnia, mi sa che per chi rimane offriamo anche da bere quello che avanza. Grazie. Grazie.